TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bracciante agricolo straniero in sella alla sua bici, muore travolta da un furgone pirata all'alba sul ponte della Delizia della Pontebbana, si cerca l'investitore. Da qualche giorno sono sempre più numerosi i richiedenti asilo accampati davanti al commissariato di Monfalcone, per il quale è stato chiesto lo sgombero. A Udine si è riunito il Consiglio delle Autonomie Locali. Tra i punti trattati, la discussione sulle linee guida della sanità per il 2026. Sciopero e picchetto davanti al municipio di Trieste da parte del personale educativo. A indirlo CGL e CISL, che protestano contro il bando part-time del comune, il primo di questo genere in Italia per la mancanza di personale e le poche stabilizzazioni. A Udine in scena invece la protesta degli ambulanti giostrai, metà dei quali esclusi da piazza Primo Maggio. La vicenda Una Bomber, si attende la decisione della Procura di Trieste, che potrebbe chiedere l'archiviazione dopo che l'ultima perizia non ha trovato corrispondenze tra il DNA degli 11 indagati e le tracce genetiche evidenziate nei reperti. Nostra intervista all'avvocato Paniz, che difende Elvio Zornitta, per anni il principale indagato. Nel salotto azzurro del municipio, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha consegnato poco fa un riconoscimento al giovane triestino Giacomo Covi, premiato per la migliore interpretazione nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia nel film Un anno di scuola. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli ancora non buongiorno da Giorgio Beyerz e Maria Spezia in studio a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 27 ottobre. In apertura purtroppo dobbiamo dare un'altra notizia di cronaca con una tragedia sulla strada, l'ennesima in regione. Un uomo infatti morto sulla Pontebbana all'altezza del Ponte della Delizia ed è stato investito da un veicolo, morto sul colpo. L'incidente è avvenuto poco dopo l'inizio del ponte dal versante udinese nel territorio comunale di Codroipo alle 6:45 di stamane. La vittima è un bracciante agricolo straniero che viaggiava su una bicicletta per recarsi a lavoro. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato travolto da un furgone che poi si è allontanato ed ora viene ricercato dalle forze dell'ordine, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di tracce per risalire al mezzo. Sul posto personale sanitario con il soccorso, carabinieri e personale di FVG Strade. Per alcune ore i mezzi hanno circolato a senso unico alternato e la circolazione tornata regolare solo dopo le 10. Un veicolo pirata, la causa dell'incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo sulla statale 13 Pontebbana all'altezza del ponte della Delizia. Era in bicicletta ed è stato investito da un veicolo ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto alle 6:45, poco dopo l'inizio del ponte dal versante udinese nel territorio comunale di Codroipo. La vittima è un bracciante agricolo straniero residente in zona, che indossava un giubbino ad alta visibilità. Sul posto è stato subito inviato il personale sanitario con l'elisoccorso, ma è stato possibile soltanto constatare il decesso dell'uomo. Secondo una testimonianza e alcuni detriti rinvenuti sulla carreggiata, sarebbe stato travolto da un furgone che poi si è allontanato. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza della zona da parte delle forze dell'ordine è stato visto proprio un furgone che trascinava una bicicletta sull'anteriore. La carcassa della bicicletta è stata trovata dentro ad un tombino a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'incidente. Per alcune ore sulla strada statale i mezzi hanno circolato a senso unico alternato, con pesanti disagi al traffico. La circolazione è tornata regolare nel corso della mattinata. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora ci occupiamo di immigrazione, perché da qualche giorno sono sempre più numerosi i richiedenti asilo accampati davanti al commissariato di Monfalcone, per il quale è stato chiesto lo sgombero. Accampati di notte davanti al supermercato, a pochi metri dal commissariato di polizia, la mattina presto, già in coda. A Monfalcone da un mese a questa parte sono molti richiedenti asilo che si presentano nell'ufficio periferico per avviare le pratiche di richiesta d'asilo. La denuncia in un post dell'europarlamentare Anna Cisint, che ha chiesto lo sgombero del piazzale. La mattina già non ci sono più code e due giovani afghani che incontriamo dicono di provenire dal confine francese, ma non ci sanno spiegare perché hanno raggiunto proprio Monfalcone per procedere con la richiesta d'asilo. La maggior parte delle persone migranti che si presentano a Monfalcone, spiega Gianfranco Schiavone di ICS, varcano il confine a Trieste, ma dopo aver tentato di registrarsi alla questura del capoluogo, non riuscendo, vanno dove hanno sentito dire che riescono a procedere più rapidamente. Risultato, dice Schiavone, abbiamo dai 25 ai 30 posti liberi in accoglienza, ma gente che non ha un posto dove stare. Da settembre, dice il sindaco di Monfalcone Luca Fasan, dalle 20 alle 40 persone migranti ogni giorno si presentano al commissariato, ma l'ufficio non può rispondere a queste richieste perché è impegnato già nell'ordinaria attività di polizia. Ci stiamo muovendo, ha concluso Fasan, anche a livello europeo perché qui si pone un problema di decoro urbano. Da questa notte la Caritas di Gorizia aprirà il dormitorio notturno da 40 posti e questo probabilmente ridurrà gli accampamenti in strada. Monfalcone, Anna Vitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri della compagnia di Monfalcone hanno ispezionato nei giorni scorsi alcuni esercizi commerciali per accertare il rispetto della normativa antinfortunistica e sanitaria e controllato la circolazione stradale per prevenire gli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Al termine dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative pari a quasi 17.000 euro con la chiusura di un deposito alimenti per carenze strutturali e igieniche. Sono stati inoltre controllati anche numerosi automobilisti, esercizi pubblici sotto l'aspetto amministrativo, identificato numerosi avventori presenti. Una dozzina di militari impiegati nelle operazioni, con 28 veicoli controllati, 49 persone identificate e 4 esercizi commerciali controllati. A Udine è in corso la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali, tra i punti in scaletta la discussione sulle prossime linee guida della sanità. È stato un parere quasi unanimemente a favore, quello espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali riunito a Udine sulle linee guida regionali per la gestione del servizio sanitario. Nessun voto contrario, unica posizione diversa è quella del Comune di Udine, che non ha partecipato al voto, e di quello di San Canzian di Sonzo, astenuto. Un via libera arrivato al termine dell'illustrazione del documento da parte dell'assessore regionale alla salute Riccardi, che ha innanzitutto rimarcato come il bilancio 2025 della sanità regionale si chiuderà in pareggio e che già nell'assestamento autunnale sono state definite le risorse da destinare al settore 2026. Un fatto storico, lo ha definito Riccardi, aggiungendo che grazie alle scelte fatte negli ultimi anni non ci sono altre regioni italiane il cui sistema sanitario è così sostenibile e in equilibrio. Roberto Festa, sindaco di Aiello del Friuli. Il cappello generale che è stato fatto dall'assessore sicuramente ci dà un indirizzo preciso su quello che è l'orientamento dell'assessorato della regione, che in questo momento riesce a programmare molto meglio degli anni passati quello che sarà il nostro futuro. Claudio Colussi, sindaco di Casarsa del Friuli. Normalmente anche come aziende sanitarie, anche come sistema sanitario, i bilanci vengono posti in pareggio dopo aver passato l'annualità, quindi è un fatto storico di avere già. Tra le linee guida principali del piano, ha proseguito Riccardi, ci sono l'entrata a regime delle 6 case di comunità che dovrebbero essere tutte aperte tra la fine di quest'anno e che dovrebbero servire a decongestionare i pronto soccorsi, il contenimento dei tempi d'attesa, il rafforzamento delle farmacie come punti di erogazione di servizi sanitari sul territorio e la prosecuzione del percorso attuativo della rete oncologica regionale, uno dei punti più delicati in cui un anno fa la discussione al Calci era accesa. Come era successo per il destino del punto nascita di Latisana, su cui, ha detto Riccardi, la palla ora in mano al Ministero, a cui la Regione ha chiesto la deroga per tenerlo aperto. Udine, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12:38 minuti diamo uno sguardo alla situazione meteo, la nuvolosità è variabile attualmente su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 13, a Udine e Pordenone 12 gradi, a Tolmezzo 8 gradi, a Forni di Sopra 7 gradi e mezzo, a Piancavallo 5 gradi e 5 decimi, 4 gradi e mezzo a Tarvisio, 1 a Sappada, sul Monte Zoncolano 1 grado e 5 decimi e sul Monte Lussari 0 gradi. Passando la costa, a Lignano ci sono 13 gradi e mezzo, a Grado 13 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo variabile o nuvoloso nella zona montana, con la possibilità di qualche debole pioggia verso sera nella fascia alpina al confine con l'Austria. Sofferà vento moderato da sud-ovest in quota. Giornata di sciopero e picchetto davanti al municipio a Trieste da parte del personale educativo. A indirlo la CGIL e la CISL, che protestano contro il bando part-time promulgato dal comune, il primo di questo genere in Italia, la mancanza di personale e le poche stabilizzazioni. Alla mobilitazione, che ha raggiunto, così si dice, l'80% della partecipazione, hanno aderito anche insegnanti di scuole, nidi d'infanzia, ricreatori e progetto area giovani comunali. La protesta ha ricevuto l'appoggio e la vicinanza da parte della Commissione Pari Opportunità del Friuli Venezia Giulia, che ritiene fondamentale, scrive in una nota la presidente Dusi Marcolin, sia l'aspetto educativo dei servizi dell'infanzia che lo strumento che essi rappresentano nella conciliazione dei tempi vita e lavoro delle donne. Un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 educatori di sostegno nelle scuole dell'infanzia, ma con un part-time verticale di 11 mesi. È uno dei motivi dello sciopero del personale dei servizi educativi del Comune di Trieste, promosso da FPCGL e FPCISL. Walter Gianni, segretario FPCISL Trieste. È la prima volta che capita in tutta quanta Italia. Allora vengono assunte educatrici in ruolo ad 11 mesi invece che a 12 mesi, quindi per un mese all'anno loro saranno senza paga, senza possibilità di andare in ASPI, avranno un mese ogni anno di contributi in meno. Questo in un ambiente come quello educativo, che è composto al 98% da donne e quindi crea un gender gap pay. La protesta ha fermato molti dei servizi educativi, mentre i rimanenti hanno lavorato con personale ridotto. Noi abbiamo, prima di andare in sciopero, più volte chiesto e scritto all'amministrazione non di togliere il bando, ma di rivedere il bando prima che questo uscisse. L'amministrazione non ci ha neanche degnato di rispondere. Xenia Gugliatti, FPCGL. Una aggravante, secondo il nostro punto di vista, è il fatto che non sia stato preso in considerazione neanche un posto di lingua slovena. A questo si affiancano le altre ragioni della protesta, a cominciare dalla richiesta di più assunzioni e stabilizzazioni, perché la qualità del servizio passa anche attraverso la qualità del lavoro. Gli organizzatori hanno scelto di esporle in maniera creativa. Mafalda Ferletti, segretaria generale FPCGL Friuli Venezia Giulia. Tutto questo è mostruoso, ma i veri mostri non siamo noi. La protesta continua anche contro l'idea di privatizzare il nido di Roiano e dopo tutti gli altri servizi educativi, perché se è vero che è stata ritirata la delibera di concessione sessantennale, adesso si parla di appalto dei servizi e questo non ci piace. I servizi educativi del Comune di Trieste sono nati nel 1841 e non vorremmo che con oggi si sancisse la loro fine. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine è andata in scena la protesta degli ambulanti giostrai, metà dei quali sono stati esclusi da Piazza Primo Maggio. Non siamo numeri ma persone. Davanti al comune di Udine la protesta dei lavoratori dello spettacolo viaggiante, metà di loro esclusi dalla fiera di Santa Caterina. Dopo il no della prefettura al Luna Park allo stadio, che poteva ospitare fino a 120 giostre, viene allestito in questi giorni in piazza Primo Maggio. Aprirà il 31 ottobre e si chiuderà il 16 novembre, ma ci saranno solo 31 attrazioni su 68 e 5 chioschi su 10. Con l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali, la soprintendenza ha limitato le possibilità di parcheggio automezzi, una limitazione in linea con l'indirizzo del comune, che in una delibera di settembre parla di necessità di ridurre le attrazioni anche per il numero limitato dei parcheggi a disposizione dei residenti. E così è stata stilata una graduatoria. I criteri di punteggio stabiliti ammettono per esempio padiglioni dolciari con 43 anni di frequenza, ma chi ne ha 42, come per esempio i Torricelli, da quasi mezzo secolo presenti a Luna Park, ne sono esclusi. Il padre di Eva, Giovanni Torricelli, nacque in Piazza Primo Maggio nella sua casa viaggiante 75 anni fa, proprio in occasione della Fiera di Santa Caterina. Mesi di trattative con il comune non hanno dato esito positivo. Come diceva Torricelli, noi non abbiamo altre possibilità di lavoro, abbiamo delle tappe organizzate e quelle sono, non possiamo decidere di andare da un'altra parte. E poi siamo davvero in difficoltà anche con le scuole dei bambini, di solito dove ci spostiamo anche le scuole. Non si tratta così la gente, conclude, è anche una questione morale, un po' di rispetto per tutti questi lavoratori. Fallito anche l'ultimo tentativo di conciliazione, un incontro questa mattina tra l'assessore Venanzi e una delegazione di lavoratori, respinta la proposta del comune di inserire qualche attrazione in più, giudicata troppo tardiva. Il Luna Park si farà comunque, ma in parallelo si finirà davanti al TAR, come nel 2021. Per dirla con Danny Medini, rappresentante dell'UNAV, ora presenteremo ricorso e ci faremo difendere nelle sedi più opportune. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora occupiamoci della vicenda Una Bomber. Si attende ancora la decisione della Procura di Trieste, che potrebbe chiedere l'archiviazione dopo che l'ultima perizia non ha trovato corrispondenze tra il DNA degli 11 indagati e le tracce genetiche evidenziate nei reperti. E sentiamo ora un'intervista all'avvocato Paniz, che difende Elvo Zornitta, per anni il principale indagato. A suo dire, le indagini avrebbero potuto concentrarsi anche in altre direzioni, una in particolare che porta proprio verso la base di Aviano. L'indagine ha subito due mancanze. La prima, la polverizzazione delle indagini, essendo gli episodi accaduti in diversi luoghi, si sono mosse diverse procure che non sempre sono riuscite a far intercettare le informazioni dell'uno a beneficio dell'altra e viceversa. E poi il fatto che quando si è unificata l'inchiesta, Zernar si è mosso in maniera delinquenziale, determinando quello che ha determinato, e lì si è persa l'opportunità di compattare i dati a disposizione e valorizzare anche elementi che erano emersi. Io ho citato due esempi che riguardano l'ordigno che io ho esaminato analiticamente assieme ai miei periti e allo stesso ingegner Zornita. Se il lamierino intaccato da Zernar era misurato non in decimali ma in pollici, vuol dire che quel prodotto proveniva da un certo tipo di mercato non abituale in Italia, il mercato sassone. C'è una base come quella di Aviano, attorno alla quale ruotano tutta una serie di elementi che provengono dal mondo sassone. Lì forse un certo tipo di approfondimento di indagine doveva essere svolto. Idem per quanto riguarda una componentistica di quell'ordigno, perché un collante che univa alcune parti di quell'ordigno era fatto con materiali non commercializzabili in Europa, nella comunità europea. Quindi, ancora una volta, quel particolare prodotto proveniva da un mercato, quello sassone, sul quale forse era il caso di andare a fare qualche approfondimento. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel salotto azzurro del municipio, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha consegnato poco fa un riconoscimento al giovane triestino Giacomo Covi, premiato per la migliore interpretazione nella sezione Orizzonti al Festival del Cinema di Venezia nel film Un anno di scuola. 21enne, Covi non aveva mai recitato prima ed è stato scelto mentre lavorava in un bar di Trieste. Sentiamo il suo racconto. Questa esperienza è partita a caso, come per gli altri ragazzi anche. Io lavoravo in bar e la regista cercava dei ragazzi che non fossero professionisti, attori professionisti, e quindi di conseguenza è andata a cercare nei locali, insomma i posti frequentati dai ragazzi, appunto, e mi ha trovato lì che, come dicevo prima, il sindaco, appunto, tagliavo prosciutto nel locale dove lavoravo. Un film a cui tieni molto, a livello personale qual è il messaggio che secondo te può dare? Beh, di messaggi ne ha tantissimi, di bellissimi, parla di adolescenza, di cambiamenti, di del brutto che c'è anche nella vita, e quello che secondo me è uno dei messaggi più belli di questo film è che va bene stare male, soprattutto a quest'età, soprattutto nell'adolescenza è giusto stare male e non bisogna farsi prendere da questi periodi bui della vita, ma insomma, è giusto affrontarli, è giusto vivere il dolore, insomma, in un certo punto di vista, ecco. Centrale anche la città di Trieste. Tu sei triestino, qual è il tuo rapporto con la città? Io sono follemente innamorato di Trieste, infatti ultimamente mi si sta dicendo che, insomma, dovrei trasferirmi, insomma, diciamo che la capitale del cinema in Italia è Roma, e quindi per facilitare le cose dovrei trasferirmi a Roma, e questa cosa mi fa piangere il cuore, perché lasciare questa città così, insomma, piena di emozioni, di bella gente, del mare, della montagna, mi mette a dura prova, però insomma sono sicuro che anche dovessi andarmene ci tornerò sicuramente in futuro. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentata poco fa a Udine nel Palazzo della Regione la nuova stagione del Teatro Bonn. Ne abbiamo parlato con il direttore Claudio Mansutti. La nuova stagione 25-26, che è un titolo utopia, il 6 novembre con un bellissimo spettacolo, Il flauto magico e 100 altre bagatelle con Elio e le storie tese, quello proprio, con un gruppo di musicisti che ci farà divertire sulla musica classica. Poi si continua con la prosa, con la danza, con degli spettacoli immersivi, perché ricordiamo che siamo su due teatri, il Teatro Maurentius, che è una grandissima tecnologia, quindi si può veramente godere sia il foyer che il teatro con effetti speciali, e il Teatro Bonn. Quali secondo lei i titoli più importanti? Sicuramente l'inaugurazione, e poi uno spettacolo molto particolare che avremo con il noto giornalista De Bortoli del Corriere della Sera e Ramin Barani, il pianista, sull'Oriente e Occidente, e anche il simpaticissimo L'inferiorità mentale della donna, che inaugura la prosa, sono sicuramente da non perdere, ma anche gli altri con Sokolov l'orchestra regionale e veramente tanti altri, io vi invito a dare un'occhiata al calendario sul sito che sarà pronto oggi. Passiamo al calcio. La Triestina nell'undicesima giornata del girone A di Serie C incontrerà la Dolomiti Bellunese e lo Stadio Zognon di Fontanafredda con calcio d'inizio alle 20:30. Sarà per la quarta volta la gara d'esordio dell'allenatore Attilio Tesser sulla panchina Labardata, alla ricerca di una salvezza che sarebbe una vera e propria impresa, vista la pesante penalizzazione in classifica. La Zucca protagonista a Pieris di Sacanzian di Sonzo, dove il centro giovani ha organizzato un laboratorio di intaglio che ha catturato l'attenzione di decine e decine di bambini e ragazzi giunti da tutto il Basso Isontino per cimentarsi nella creazione delle spaventose e divertenti lanterne. E ancora per i più piccoli, la riedizione dei vecchi giochi di legno che appassionavano forse più degli smartphone attuali e pioggia di bolle di sapone da inseguire per pochi attimi nell'aria. Il prossimo venerdì, 31 ottobre, la piazza di Pieris vedrà il gran finale della festa di Halloween con il ballo mascherato e il premio al travestimento più originale. Contemporaneamente, la mostra mercato degli artigiani e DJ set paesano fino a tarda sera. Il sassofonista Luca Capizzi è accompagnato nel Borgo di Grado turisti e visitatori per l'evento Le Calli di Bacco, che ha allestito percorsi alla scoperta dei sapori tipici dell'Isola d'Oro. A corredare l'offerta, passeggiate esplorative nei luoghi storici dei pescatori e sulle rive d'attracco, escursioni in bicicletta e visite ai casoni lagunari. Confcommercio, che ha organizzato l'evento, ha già assicurato una nuova edizione per il 2026. Alcuni appuntamenti di oggi in regione. Il docente di storia Tommaso Piffer presenterà il suo libro Sangue sulla Resistenza con lo storico Paul Pupo a Trieste, la libreria Lovat, alle 18. In occasione del 100° compleanno del partigiano Diego Canciani sarà presentato il diario di Pietro Menis, redatto 80 anni fa e solo recentemente pubblicato, al Castello di Coloredo di Monte Albano, alle 18. Giuseppe Notar Stefano, presidente nazionale di Azione Cattolica, sarà il nuovo protagonista del ciclo Europa Culture in Dialogo. L'incontro sostituisce quello con l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, che non potrà essere presente a causa di un inderogabile impegno, ma che verrà riprogrammato nei prossimi mesi a Gorizia, al Kulturnidom, alle 18:30. Primo appuntamento per la nuova edizione del ciclo di incontri e approfondimenti lunedì dello Schmidl, protagonista Luca Scarlini con la conversazione L'aria nel romanzo, l'opera nella letteratura italiana del Novecento, a Trieste, a Palazzo Gopcevic, alle 17:30. Giornata d'esordio per il ciclo di incontri su salute e cura tenuto da medici e naturopati, organizzato dall'associazione culturale Le Pecore Nere, che oggi proporrà l'appuntamento Curare con il metodo Amer, condotto da Onofrio Di Mattia, dedicato alla nuova medicina germanica di Gehammer a Trieste, nella sede dell'associazione in via Rossetti, alle 18. Per gli spettacoli Locus Solus e Due tentativi al secondo sono gli spettacoli della compagnia di danza Area Rea in scena a Trieste al Teatro Miela alle 20:30. Riflette sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo lo spettacolo Mulino Bianco in scena a Trieste al Teatro Rossetti alle 21:30. Sarà proiettato in versione 4K in occasione del suo 50° anno il film The Rocky Horror Picture Show, film con la permanenza in sala più lunga nella storia del cinema, a Udine al Cinema Visionario e a Pordenone a Cinema Zero alle 21:15. Ultimo appuntamento per la 28esima edizione del ciclo Ottobre Organistico, in cui l'organista francese Manuel Arachelian si esibirà in musiche di Mozart e Bach a Trieste della Basilica di San Silvestro alle 20:30. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezza e Giorgio Beyerz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.